ieri sera abbiamo deciso di riappropriarci dello spazio pubblico con una passeggiata transfemminista che ha attraversato parti della città anche dopo il coprifuoco. E lo abbiamo fatto fondamentalmente per rivendicare l'autogestione della nostra safety e la costruzione di forme di autodifesa collettiva. E abbiamo visto che la gestione della pandemia da parte dello Stato ha completamente ignorato la violenza strutturale eteropatriarcale capitalista e razzista che subiscono le donne, le persone queer, migranti o persone con disabilità, e ci ha tolto degli spazi che ci servono per mettere in atto strategie di autodeterminazione e contrasto alla violenza. La sicurezza che lo Stato ci impone è spesso limitata e controproducente, e le limitazioni incoerenti alla libertà di movimento in qualche modo hanno ostacolato tutte le pratiche di mutuo aiuto transfemminista che abbiamo sempre posto in essere nel rispetto anche della salute collettiva. Quindi anche solo il dover tornare a casa dopo il coprifuoco, che sia per scelta, per necessità o per lavoro, diventa doppiamente rischioso, quindi il livello di rischio è doppio, perché ci si toglie la possibilità, ad esempio una pratica che poniamo in essere è quella di ad esempio non tornare a casa da sole e quando ci sentiamo insicure nell'attraversare lo spazio pubblico di notte, e anche questo questa pratica ci è stata tolta, perché ora il non tornare a casa da sole, se ci si trova ad attraversare lo spazio pubblico dopo il coprifuoco, vuol dire esporsi a un livello di rischio più alto, ad esempio, di ricevere multe. Poi ci troviamo davanti a delle città che sono svuotate dopo una certa ora e sono praticamente attraversate esclusivamente da polizia e forze dell'ordine, che vanno poi a rappresentare e incarnare comunque lo stereotipo dell'uomo armato, violento e oppressore. Proprio su questo volevo farti una domanda, quindi insomma rifiutate il concetto di sicurezza militare, diciamo. Sì, assolutamente, e ci rivendichiamo l'autogestione. Diciamo sempre che le strade sicure le fanno che le compagne che le attraversano, e il fatto che ci sia questa misura limitante dopo una certa ora non fa altro che rendere le strade ancora più insicure. La presenza della polizia non le rende assolutamente, cioè non ci assicura assolutamente la safety. In questi giorni si è discusso molto del coprifuoco e di farlo slittare dalle 22 in avanti in un modo comunque funzionale a quelle che sono le attività economiche. Ecco, voi intervenite anche su questo tema, insomma non può essere una cosa ridotta all'attività economica. No, assolutamente, infatti la nostra critica al coprifuoco è una critica assolutamente anticapitalista. Il nostro problema infatti non è l'apertura o meno dei bar o la possibilità di andare a cena e finire la cena con calma. Rifiutiamo ogni critica dal coprifuoco in un'ottica capitalista come quella che è stata posta in essere da parte delle destre, che come sappiamo poi anche da anni portano avanti delle politiche e delle retoriche ultracattoliche e patriarcali che vogliono diminuire la nostra autodeterminazione, che quindi rifiutiamo fortemente. E assolutamente non, cioè il nostro problema non è sicuramente quello di poter consumare lo spritz al bar, ma la critica sta anche nella gestione della pandemia, anche dal punto di vista della riapertura dei bar e la chiusura delle piazze, quindi chiusura di tutti quegli spazi, parchi e piazze in cui può svolgersi una socialità che vada oltre il consumo. E quindi è assolutamente in un'ottica anticapitalista. Lo rifarete? Vedremo. Sicuramente continueremo ad attraversare le strade.